cuore e denari. I consigli della settimana. Ultima parte di Cuore Denari, cara la mia Deborah, adesso è tempo di far accomodare il nostro esperto amico Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta che ogni settimana ci porta nelle famiglie dei nostri ascoltatori per dare qualche consiglio educativo, qualche dritta ai genitori alle prese con bambini che crescono. Alberto, buongiorno e bentornato. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Allora, ci siamo messi un po' a pensare, naturalmente come ci capita sempre, anche questa settimana, su quale fosse la notizia da commentare e discutere con Alberto Pellai in questa domenica, e ci è venuta l'idea di andare un po' sulla scia di Sanremo e di parlare di un tema che normalmente con difficoltà viene approfondito in famiglia come si dovrebbe, in relazione appunto all'educazione dei figli, ovvero il tema della bellezza. Eh sì, perché la bellezza è in effetti un tema sia cuore che denari. Cuore perché è un po' la bellezza che muove tanti passaggi della nostra vita, la cerchiamo per noi, la cerchiamo nelle persone che amiamo, la cerchiamo anche per rendere più sopportabile e piacevole la nostra vita. Ma è anche un tema molto denari, appunto lo diceva Nicoletta, mai come negli ultimi 30 anni la bellezza ha generato un mercato che in parte almeno ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e il nostro modo di stare al mondo. Alberto, per te la bellezza è un tema educativo, secondo te? È un tema che possiamo portare nelle nostre case, su cui discutere con i nostri figli? Bisogna avere, però, prima dare una definizione di che cosa sia la bellezza. Ma la bellezza, secondo me, è proprio un po' un dovere morale, riprendendo una frase, tra l'altro, che hanno anche detto a Sanremo, citando il vescovo di Locri, cioè permettere ai nostri figli di crescere in un ambiente dove non c'è il culto, ma c'è la coltivazione della bellezza, cioè c'è la preoccupazione di portarli, accompagnarli in percorsi dove possano scoprire la differenza tra il bello e il brutto, dove guardandosi intorno scoprano proprio la bellezza della natura, la bellezza dell'architettura, la bellezza dell'arte e anche la bellezza delle persone, non solo con un criterio estetico, ma proprio con un criterio che costruisce significato. Ecco, per me questo è proprio parte del percorso educativo di noi genitori. E questo, secondo me, è un tempo in cui i nostri figli, invece di bellezza, vedono, sanno e conoscono pochissimo. Entrano in videogiochi, entrano in cose che sono veramente molto, un po' molto identiche, molto omologate. Stereotipate, direi. Sì, in tutto il mondo ascoltano la stessa musica, guardano gli stessi video, scelgono a volte anche solo gli stessi libri. Abbiamo perso un po' l'essere unico e speciale che sta dentro alle nostre radici. In questo io trovo che lavorare come genitori sul tema della bellezza sia proprio un po' una priorità educativa, ecco, in questo momento. Perciò mi è piaciuto tantissimo il percorso che hanno proposto gli autori e conduttori di Sanremo al loro pubblico. Ecco, a Sanremo, anche se i bambini non dovrebbero guardarlo, perché a quell'ora sono tutti a letto, hanno proprio scelto, lo abbiamo detto, di raccontare la bellezza in un modo anche molto originale. Ha fatto molta presa sul pubblico questo coraggioso, forte, anche audace per certi versi, monologo di Luciana Littizzetto, che oltre alla bellezza ha parlato anche del modo in cui la si racconta ai bambini. Sentiamo questo brevissimo passaggio. Se a te mamma un bambino ti chiede come mai c'è una donna che ha un braccio solo, tu non sai che cosa dirgli. Ma se invece ti chiede come mai ci sia una che davanti a due bocce dei pesci rossi, cosa gli dici? Vedi Jason, quella signora si è fatta aprire come una simmental e si è fatta mettere della gomma sotto pelle, così i meschietti hanno tanto spazio per giocare e lei è contenta. Se sai spiegare perché quella c'ha due dirigibili al posto delle tette, allora spiegagli anche perché quell'altra ha un braccio solo. Un signore sta in carrozzella, quello ha le mani che tremano forte, perché un bambino non parla e un altro ogni tanto tira i libri alla maestra e urla. Alberto, allora, troviamo le parole per spiegare queste diversità. Sì, credo che prima di tutto dobbiamo volerle spiegare queste diversità. Cioè, più volte io mi sono trovato a confronto con genitori che erano davvero spaventati dalla diversità, da ciò che non appariva uguale a tutto il resto. E allo stesso tempo, secondo me, in questo momento ci sono un sacco di nostri figli che sono davvero preoccupati, a volte addirittura spaventati, di non avere un corpo come ce l'hanno tutti gli altri, di non avere un vestito come ce l'hanno tutti gli altri. Allora, per me come adulto, e un po' anche per me che faccio il terapeuta di mestiere, un messaggio fondamentale da condividere tra noi adulti è che ciascuno di noi deve essere davvero orgoglioso della sua unicità, del suo essere speciale, del suo essere un po' diverso e differente da tutti gli altri, e direi anche un po' orgoglioso della propria imperfezione. L'imperfezione ci permette di poter andare in giro tenendo alto lo sguardo, invece che tenere sempre lo sguardo incollato su noi stessi per verificare che qualcosa non è andato storto, oppure che ci sia qualcosa di noi che potrebbe disturbare lo sguardo degli altri. Noi dobbiamo imparare a guardarci con uno sguardo indulgente e benevolo, e lo stesso sguardo porlo sul corpo e sulla vita degli altri. Ecco, con questa tua risposta già in parte hai introdotto la prossima domanda, Alberto, perché la bellezza in effetti è diventata un po' un business, anzi forse un business sempre più grande che ha mosso un vero e proprio mercato. Questo è un tema denari? Questo ha avuto un impatto sulla vita dei nostri figli, e chi è più vulnerabile secondo te? Ma in particolare direi i preadolescenti e gli adolescenti, e tra l'altro la preoccupazione sul corpo per loro è fisiologica, perché il corpo di un ragazzo in questa fascia d'età è proprio un corpo difficile da domesticare. Ogni giorno cambia, ogni giorno si modifica, ogni giorno ti presenta magari un aspetto che tu non volevi. Un brufolo diventa una tragedia, no, per un ragazzo. E se ai nostri figli che hanno un corpo in divenire noi proponiamo una cultura, un sistema che li obbliga invece ad avere un corpo perfetto, a volte addirittura un corpo irraggiungibile, generiamo una preoccupazione esagerata. Infatti questo direi che è un tema su cui noi lavoriamo tanto. Facendo questo mestiere troviamo tantissimi ragazzi e ragazze che combattono in modo molto autolesivo contro il proprio corpo. Alberto, ma tu accennavi agli adolescenti che sono in una fase molto delicata della loro vita. Quando è passata si dice che è il periodo più bello della vita, ma a viverlo può diventare davvero faticoso. E di fronte ad un ragazzo o ad una ragazza che trova quasi vergogna a mostrare il suo corpo, si sente brutto, si sente preso in giro dai compagni, tante volte le parole dei genitori sembrano di poco aiuto. Come si fa ad affrontare e a dare questo problema, a dare un po' di sicurezza ai ragazzi che non possiamo nascondere, tutti desiderano essere carini, belli, accettati, corteggiati, apprezzati anche per il lato estetico? Ma io credo che in questo momento ci sia davvero bisogno che il mondo degli adulti impari a proporre ai ragazzi molte persone davvero interessanti, piene di cose da raccontare, davvero stimolanti, in qualche modo esemplari, ma che al tempo stesso non sono persone bellissime in quel modo stereotipato. In questo condivido completamente il monologo di Luciana Littizzetta al Festival di Sanremo, che ha raccontato la bellezza di personaggi che sono davvero meravigliosi, e non perché hanno un corpo meraviglioso. Esattamente come ho trovato molto bello far salire sul palco tantissime persone che noi definiremmo anziane, ma che avevano una bellissima storia di vita, una quantità, ecco, di particolari che li rendevano esemplari e meravigliosi. Per me, per esempio, vedere Cat Stevens sul palco di Sanremo il giorno dopo, scoprire che la sua Father and Son era al primo posto delle canzoni più scaricate su iTunes, è proprio uno di quegli esempi. Cioè, fai portare sul palco, fai conoscere il lavoro, il percorso di persone che sono belle per quello che hanno fatto, non per come si presentano. Alberto, 30 secondi di tempo per i consigli di lettura di questa settimana. Ma direi per i genitori il libro di Charmé, La paura di essere brutti, è un libro proprio che aiuta a capire perché i figli combattono così tanto contro il loro corpo. Per i ragazzi il diario di Miss Ione, pubblicato dalla Erickson, sottotitolo Storia di una ragazza che diventò se stessa, una ragazza un po' bruttina ma piena di bellezza, e che con la sua forza d'animo contagia tutto il mondo della scuola al quale appartiene. Grazie ad Alberto Pellai. Grazie a voi, buona domenica. E noi invece, Deborah, ci diamo appuntamento domani, come domani, sempre alle 11 con cuore e denari.